Friuli nel mondo, 171esima trasmissione dedicata agli emigrati. Buon anno 1968. L'augurio che oggi vi rivolgiamo, cari amici lontani, accompagnato da questi semplici motivi popolari, è un augurio fatto non solo a nostro nome, ma di tutto il Friuli di cui voi siete l'orgoglio e la nobiltà più autentica. Dai vostri cari, dalle città, dai paesi, dalle borgate che vi hanno visti nascere e che chiudete come dono prezioso nello scrigno della vostra memoria, un abbraccio e tre sole semplici parole cui affidiamo il compito di dirvi tutto il nostro affetto profondo. Felice anno nuovo. Il complesso tipico diretto da Bruno Degano eseguirà C'è mattine di Marzuttini, Serenade annine di Bruno Degano, Paveute di Marzuttini, Giudizi di Stabile, Le melusignute di Lenuzze, Eie tornate la primavera di Stel, e infine Il cialzumit di Candotti. trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.